scrivo dalla peste di Parigi. I cieli sono grigi come dice la pubblicità. La gloria viene e va e io la lascio andare. Ti sembra di volare e poi da capo ti ritrovi qua a dire solo ciao. Ti scrivo dalla terra di nessuno, in cerca di qualcosa, di qualcuno che non sono più. L'hai detto pure tu che mi conosco male. Ti sembra di cambiare ma ogni giorno fai la stessa gara. E allora no, non ci voglio andare giù nel tunnel degli orrori. Sono quasi tutti a bere, sì, ma io ne sono fuori. Come fosse il giorno della prima comunione. Vestiti tutti bene, c'è perfino un po' di sole. Scrivo da una foto di Parigi. I cieli sono grigi e tu sorridi, forse dici cheese, ma è solo un souvenir. Oh, mi ricordo male. Ti sembra di scherzare, ma è la verità. E allora io ti ho scritto troppe lettere d'amore. Per rabbia o per pudore, quasi sempre le ho buttate via. Tu sei una malattia che io non so curare. Un giorno mi vedrai tornare, mi vedrai tornare, mi vedrai tornare. Non ci voglio andare giù nel tunnel degli orrori. Sono quasi tutti a bere, ma io ne sono fuori. Come i miei quaderni della prima elementare. Da quegli scarabocchi tu lo sai che non si evade. Non ci voglio andare giù nel tunnel degli orrori.